Calabria, dagli origini all'unità d'Italia. Storia di una regione che non si arrende di fronte alla marginalità e alle sfide dello sviluppo. Le origini, la Magna Grecia. La presenza umana in Calabria è attestata dalla fine del Paleolitico inferiore, 500.000-250.000 anni fa, dagli utensili e dai ciottoli intagliati, rinvenuti al lago Arbo nella Sila, a Casella di Maida e a Rosaneto di Tortora. Nella media e tarda età del bronzo si svilupparono insediamenti di carattere essenzialmente agricolo, comunità caratterizzate da una grande varietà etnica e culturale. Tra queste genti si ricordano gli Ausoni e gli Enotri. A un re degli Enotri, Italo, alcune fonti antiche, Tucidide e Aristotele, fanno risalire il nome Italia. In epoca micenea il mondo greco entrò per la prima volta in contatto con la Calabria. I coloni introdussero tecnologie e pratiche di sfruttamento delle risorse sconosciute tra i locali, in cambio delle materie prime, soprattutto metalli, di cui la regione era ricca. Nell'VIII secolo avanti Cristo partì poi dalla Grecia un imponente flusso migratorio alla volta dell'Occidente. La collocazione strategica della Calabria ne fece una meta naturale per i greci in cerca di fortuna. Protesa al centro del Mediterraneo, la regione si trovava infatti sulla rotta che collegava il Tirreno con i mari orientali e costituiva l'accesso obbligato, via terra, alla Sicilia attraverso lo stretto di Messina. Iniziò così la colonizzazione di quella che sarebbe diventata la Magna Grecia. In Calabria gli Achei fondarono Sibari, circa 720 avanti Cristo, e Crotone poco dopo. I Calcidesi si stabilirono a Rhegion, Reggio. I coloni di Locri si installarono sulla costa ionica e diedero al loro centro il nome di quello che avevano lasciato. Le nuove città si distinsero per lo straordinario dinamismo. Ne derivò un eccezionale sviluppo economico, segnato da passaggi molto importanti come l'invenzione della moneta e la nascita di una classe di mercanti e artigiani che avrebbe cambiato volto al bacino del Mediterraneo. Guerre tra città, la conquista romana. Organizzate secondo il modello delle città-stato elleniche, le colonie calabresi si contendevano i canali commerciali con la madrepatria e i mercati interni. La rivalità più accanita oppose Crotone a Sibari e si risolse con la distruzione di quest'ultima nel 510 a.C. Alcuni decenni più tardi, nel 444, sul sito in cui era sorta Sibari venne fondata Turi. Sul finire del V secolo il mondo greco fu scosso dalla guerra del Peloponneso, che per quasi 30 anni oppose Atene a Sparta. Della disfatta ateniese approfittò Dionisio, tiranno di Siracusa, che sposò una donna locrese ed estese il proprio dominio sulla Calabria, sottomettendo la stessa Crotone. Nella parte settentrionale della regione stavano intanto emergendo i Bruzzi. Riuniti in una potente federazione, sconfissero i Lucani, che li avevano fino ad allora oppressi, e presero il controllo di un vasto territorio intorno alla capitale, Cosenza, l'attuale Cosenza. Non poterono tuttavia opporsi ai Romani, decisi a sottomettere la parte meridionale della penisola. Come a diversi popoli italici prima di loro, ai Bruzzi fu fatale l'alleanza con Annibale nella seconda guerra punica, scoppiata nel 218 a.C. Il condottiero cartaginese si spinse fin nell'Italia meridionale sull'onda di alcune travolgenti vittorie, ma non riuscì ad assestare il colpo decisivo al nemico e, incalzato e indebolito, dovette ripiegare verso l'Africa. I Bruzi persero così definitivamente la libertà e Roma poté stabilire le proprie colonie in tutta quella che era stata la Magna Grecia. Nel 73 a.C. i Bruzi provarono a rialzare la testa e si unirono alla rivolta degli schiavi guidati da Spartaco, ma dopo alcuni iniziali successi il tentativo fallì e la vendetta romana fu, come sempre, feroce. Bizantini, Longobardi, Normanni. La riorganizzazione territoriale dell'Italia voluta da Ottaviano Augusto all'inizio del primo secolo d.C. accorpò le odierne Calabria e Basilicata nella Regio Terza Lucania et Bruzium. L'ultima fase della storia dell'impero vide la progressiva crisi delle istituzioni romane e la contemporanea diffusione del cristianesimo. Nel 476 Odoacre, generale dell'esercito romano di origine germanica, fu riconosciuto dall'imperatore d'Oriente Zenone e dallo stesso Senato di Roma come governatore dell'Italia. Nel 493 fu però sconfitto e assassinato dagli ostrogoti di Teodorico. Nel 526 Teodorico morì e l'anno successivo Giustiniano divenne imperatore d'Oriente. La Calabria, sostanzialmente risparmiata dalla terribile guerra greco-gotica che devastò l'Italia a partire dal 535, rimase sotto il controllo dei Bizantini. L'unità del territorio calabrese fu spezzata dai Longobardi, che intorno al 570 fondarono il Ducato di Benevento, cui fu annessa la zona di Cosenza. Bisanzio mantenne comunque il controllo del resto della regione, che fu interessata da un marcato processo di ellenizzazione, cui non corrispose però uno sviluppo economico paragonabile. Il Ducato bizantino di Calabria si mantenne fino all'arrivo dei Normanni, che rivoluzionarono l'assetto dell'Italia meridionale. La campagna normanna per la conquista della Calabria si aprì nel 1050 ad opera di Roberto il Guiscardo, 1015 circa 1085, e richiese più di 10 anni di assedi e battaglie. Nel 1061 Roberto si proclamò duca di Calabria e stabilì la capitale a Reggio. I Normanni si avviarono così ad affermarsi come grande potenza mediterranea, grazie anche alla successiva conquista della Sicilia e alla fondazione del regno omonimo, con Ruggero II d'Altavilla come primo sovrano. 1130. Dagli Svevi agli Angioini. Nel 1194 l'imperatore Enrico VI, marito di Costanza d'Altavilla, cinse la corona di Sicilia. Il dominio svevo si consolidò con il loro figlio Federico II, Stupor Mundi, una delle più grandi personalità del Medioevo. Questo periodo coincise con una fase di notevole sviluppo per la Calabria. Alla morte di Federico, salì al trono il figlio naturale di questi, Manfredi, i cui iniziali successi attirarono l'ostilità del Papa. Nel 1263 la Sicilia fu concessa in feudo dal Papa Clemente IV a Carlo d'Angiò, signore di Provenza e fratello del re di Francia, che nel 1266 colse a Benevento una vittoria decisiva su Manfredi. Dopo la sconfitta degli Svevi, si scatenò in Calabria la caccia ai sostenitori del vecchio regime. Gli Angioini confiscarono le terre dei feudatari leali a Manfredi e non mancarono arresti e condanne a morte. Una fiscalità molto severa impoverì le campagne e non permise alle città di affrancarsi come avveniva in altre regioni d'Italia. Soltanto Cosenza, nel corso del 300, riuscì a sviluppare una certa identità comunale. Vessato dai baroni, il popolo di Calabria sviluppò una particolare devozione verso la figura del re, visto come una tutela contro le prepotenze dell'aristocrazia. Questa tendenza si manterrà nei secoli successivi, quando la monarchia, più volte in difficoltà, potrà sempre contare sulla lealtà popolare contro le forze che di volta in volta la minacciavano. Tra Spagna e Austria. Nel 1434 il re Alfonso d'Aragona, sovrano di una dinastia che dal 1302 governava la Sicilia, rovesciò gli Angioini e riunì i territori del vecchio regno normanno e svevo. Il nuovo regime trattò la Calabria al pari del vecchio, tra imposte e oppressione feudale. Nel 1459 scoppiò una rivolta contadina, capeggiata da Antonio Centelles, marchese di Crotone, domata nel sangue dagli aragonesi. Nel 1500 Luigi XII di Francia si accordò con il re di Spagna Ferdinando il Cattolico per spartirsi l'Italia meridionale. La Calabria e la Puglia sarebbero toccate agli spagnoli, la Campania ai francesi. L'intesa tuttavia durò poco, scoppiò una nuova guerra e a spuntarla furono gli spagnoli, che ottennero infine il controllo del regno di Napoli. Alla fine del Cinquecento risale la vicenda di Tommaso Campanella, nato a Stilo nel 1568, frate domenicano, filosofo e teologo, fondò il proprio pensiero sulla necessità di una grande riforma politica e religiosa, il che lo espose a 3 processi per eresia prima dei 30 anni. Nel 1599 decise di passare all'azione e cominciò a lavorare per instaurare in Calabria una forma di governo repubblicana fondata su principi filosofici ispirati al cristianesimo universale e naturale. Un progetto ambizioso che recava in sé i germogli di rinnovamento sociale. La congiura fu scoperta e nel 1602 Campanella fu di nuovo imprigionato. Trascorse in carcere i 27 anni successivi, durante i quali scrisse le opere maggiori, tra cui La città del sole. Nel 1647 scoppiò a Napoli la rivolta di Masaniello, che sembrò minacciare seriamente la tenuta delle istituzioni spagnole a Napoli, prima di spegnersi in appena 10 giorni. In Calabria si accesero tumulti, in particolare a Catanzaro, tutti repressi. Nel 1700 la morte senza eredi del re di Spagna Carlo II d'Asburgo, formalmente anche re di Napoli con il nome di Carlo V, mandò in fibrillazione le cancellerie d'Europa. Due grandi casate, gli Asburgo d'Austria e i Borbone di Spagna, si contesero il regno di Napoli. Furono questi ultimi a prevalere. Nel 1734 Carlo di Borbone salì al trono di Napoli e aggiunse ai propri possedimenti la Sicilia. Rivoluzioni e restaurazione. Alla fine del Settecento l'Europa venne scossa da due terremoti, la Rivoluzione francese e la fulminea campagna di Napoleone Bonaparte in Italia. A partire dal 1796 vennero fondate diverse repubbliche ispirate al modello francese e per questo ricordate come Giacobine. Nel gennaio 1799 ne venne proclamata una a Napoli. Il re riparò a Palermo con la famiglia e la corte. Trainata e sostenuta dalla borghesia urbana, la rivoluzione napoletana non riuscì ad attecchire nelle campagne. In Calabria, Catanzaro, Crotone e Cosenza aderirono alla causa repubblicana, ma altre città come Reggio e Cagli rimasero fedeli al vecchio regime, al pari delle aree rurali. Proprio dalla Calabria partì la reazione borbonica. Il cardinale Fabrizio Ruffo si offrì di organizzare le rivolte contadine sotto le insegne della monarchia e della religione. compito sembrava improbo. Il 7 febbraio 1799 Ruffo sbarcò presso Villa San Giovanni alla testa di poche decine di fedelissimi. Il 23, tuttavia, l'esercito del cardinale contava già 1500 uomini e in breve furono 20 volte tanto. In un clima di scoramento e delusione, i centri giacobini presero ad arrendersi uno dopo l'altro e le truppe sanfediste, chiamate così perché proclamavano di battersi per la Santa Fede, riconquistarono la Calabria, quasi senza combattere. Catanzaro aprì loro le porte l'8 marzo. Paola, Cosenza e Crotone cercarono di resistere, ma vennero espugnate e brutalmente saccheggiate. Il 3 aprile tutta la Calabria era riconquistata alla causa borbonica. Nel 1806 i francesi di Napoleone posero sul trono di Napoli Gioacchino Murat. Le sue riforme, tese tra l'altro ad abolire il sistema feudale, non riuscirono a guadagnargli le simpatie della gente di Calabria. Alla caduta di Napoleone, Murat, illuso da voci infondate sulla propria popolarità, tentò di riprendersi il regno. Sbarcato a Pizzo l'8 ottobre del 1815, venne però arrestato poco dopo e fucilato il giorno 13. La caduta dei Borbone. Nello stesso 1815 il congresso di Vienna ricollocò i Borbone sul trono. Il nuovo regno, ribattezzato delle Due Sicilie, resistette fino al 1860, quando la spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi, si lanciò alla conquista dell'Italia meridionale. Sbarcati a Marsala in maggio, il 19 agosto i garibaldini toccarono il continente a Melito Porto Salvo, a una trentina di chilometri da Reggio, e in un paio di settimane presero il controllo della Calabria, travolgendo la debole resistenza dell'esercito borbonico, grazie anche al favore del popolo, che per la prima volta voltava le spalle alla dinastia. L'unità d'Italia venne proclamata il 17 marzo 1861. Restava aperta la questione di Roma, rimasta sotto l'autorità del Papa, con la protezione di Napoleone III. Nell'agosto 1862, Garibaldi mosse dalla Sicilia con l'intenzione di risalire l'Italia meridionale e attaccare la città. Allarmato da una possibile crisi internazionale, il governo di Torino inviò l'esercito a fermarlo. I 2000 volontari garibaldini vennero intercettati nell'Aspromonte e nel breve scontro che seguì lo stesso Garibaldi venne ferito. Sconfitto e arrestato, sarà liberato qualche tempo dopo grazie ad un'amnistia. Dopo l'unità, i primi anni della Calabria nell'Italia unita furono molto difficili. La diffusa miseria, il malessere sociale, l'arroccamento dei latifondisti in difesa dei loro privilegi e le serissime difficoltà della transizione, aggravate dai molti errori commessi dai nuovi governanti, causarono l'aumento esponenziale del brigantaggio. Le autorità statali scelsero di trattare questo fenomeno come un semplice problema di ordine pubblico. Nel 1865 il brigantaggio poteva dirsi sostanzialmente sconfitto, anche se rimanevano i problemi che lo avevano scatenato. Tra il 1880 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale, circa 250.000 calabresi sceglieranno così di emigrare in altre regioni d'Italia o all'estero. Un effetto positivo delle politiche governative fu invece la costruzione di importanti infrastrutture. Negli anni 70 dell'Ottocento venne realizzata la ferrovia ionica e sul finire del secolo si aggiunse quella tirrenica, che cominciarono a tirare fuori la regione dall'antico isolamento. Nel 1908 un catastrofico terremoto si abbatté su Reggio Calabria e Messina. Le città furono rase al suolo e si contarono oltre 120.000 vittime. 2 anni più tardi, il governo istituì una commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali, con Francesco Saverio Nitri, delegato per la Calabria e la Basilicata. Emerse un quadro di stagnazione economica e degradazione sociopolitica sconfortante, per il quale lo Stato non trovò contromisure efficaci. I fratelli Bandiera. Dopo la restaurazione borbonica operata dal Congresso di Vienna, si svilupparono nel Regno di Napoli e un po' ovunque in Europa forme di resistenza e di protesta contro la monarchia reazionaria. Animate da intellettuali, borghesi e nobili aperti alle idee liberali, erano coordinate da società segrete come la Carboneria, che organizzò gli sfortunati moti del 1820. A partire dal 1835 circa si affermò la Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, che si proponeva di fare dell'Italia una Repubblica unita. Tra le aspirazioni di una minoranza politicamente consapevole e la base popolare, tuttavia, la distanza continuava a essere netta. Di questo equivoco pagarono le conseguenze, tra gli altri, i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, patrioti mazziniani che ritenevano che accendere un piccolo focolaio di insurrezione sarebbe bastato per sollevare contro i Borbone tutta l'Italia meridionale. Organizzarono quindi una spedizione e il 16 giugno 1844 approdarono alla foce del fiume Neto. L'impresa tuttavia nasceva già morta. I fratelli Bandiera e i pochi compagni si resero subito conto che le campagne non avevano alcuna intenzione di seguirli, così come non avevano seguito i precedenti tentativi di orientarle contro il re. Il 20 giugno vennero arrestati a San Giovanni in Fiore e nel luglio successivo furono fucilati nel vallone di Rovito, presso Cosenza.